Il terzo anello, ad alta voce. Il richiamo della foresta di Jack London. Traduzione di Gianni Celati. Quando giunse l'autunno, gli alci comparvero numerosi, lentamente scendendo per svernare nelle basse vallate meno fredde. Buck aveva già abbattuto un giovane alce sbandato, ma desiderava ardentemente una preda più grande e più terribile. E la incontrò un giorno sullo spartiacque alle fonti del torrente. Una banda di 20 alci veniva verso di lui, attraverso la terra di boschi e torrenti, guidata da un alce grande e adulto. Era un animale infuriato, alto più di 6 piedi, l'avversario più spaventoso che Buck potesse desiderare. L'alce agitava avanti e indietro le grandi corna palmate, che contavano 14 punte e che coprivano uno spazio di 7 piedi in larghezza. I suoi piccoli occhi brillavano di una luce cattiva e nervosa, mentre muggiva furibondo alla vista di Buck. Dal fianco dell'alce, proprio a ridosso dell'anca, sporgeva l'estremità di una freccia piumata, il che spiegava lo stato di furore dell'animale. Guidato da un istinto che risaliva alle epoche di caccia, ai primordi del mondo, Buck per prima cosa tagliò fuori il grosso alce adulto dal branco. Ma quando l'aveva così separato dai suoi simili, 2 o 3 alci più giovani caricavano Buck alle spalle per permettere all'alce ferito di ricongiungersi al branco. V'è una pazienza nella vita selvaggia, qualcosa di testardo, instancabile, persistente, come l'esistenza stessa, che mantiene immobile per ore e ore all'infinito il ragno nella sua ragnatela, il serpente nelle sue spire, la pantera in acquato. Quando scese il crepuscolo, il vecchio alce stava a testa bassa, osservando i compagni, le femmine che aveva conosciuto, i piccoli che aveva allevato, gli adulti che aveva sottomesso, mentre questi con andatura dinoccolata si allontanavano rapidamente nella luce che spariva. Non poteva seguirli, perché davanti al suo muso si agitavano quelle zanne spaventose e spietate che non l'avrebbero lasciato passare. Aveva vissuto a lungo, una vita piena di scontri e battaglie, e da ultimo la morte gli veniva incontro nella forma di quei denti di una creatura non più alta delle sue ginocchia nodose. Finalmente, al termine del 4º giorno, Buck abbatté il grande alce. Per un giorno e una notte rimase presso la bestia uccisa, un po' mangiando e un po' dormendo, a fasi alterne. Poi, riposato, rifocillato, forte, si diresse verso l'accampamento e verso John Thornton. Prese il suo passo lungo e facile, al piccolo trotto, e proseguì così ore e ore, senza mai perdersi nell'intrico dei sentieri, puntando direttamente alla meta, attraverso un territorio sconosciuto, con una sicurezza di orientamento da far vergognare l'uomo col suo ago magnetico. A mano che procedeva, divenne sempre più certo di quel nuovo fremito che attraversava le terre. Notò come la foresta fosse gravida di silenzio. La vita degli uccelli era volata via e gli scoiattoli si erano nascosti. Ne vide uno soltanto, una presenza grigia e soffice, appiattita contro un ramo grigio e secco tanto che sembrava farne parte, essere un'escrescenza legnosa spuntata dal legno stesso. Mentre Buck scivolava in avanti, furtivo come un'ombra che scorre, il suo naso d'improvviso fu attratto su un lato, come se una forza concreta l'avesse afferrato e trascinato. Seguì quel nuovo odore fino a un cespuglio e trovò Nick. Giaceva su un fianco, morto, nel punto in cui si era trascinato, con una freccia piumata che sporgeva da entrambi i lati del corpo. 100 yarde più oltre, Buck incontrò uno dei cani da slitta che Thornton aveva comprato a Dawson. Questo cane si dibatteva lottando con la morte, proprio in mezzo alla pista, e Buck gli girò all'arco senza fermarsi. Dall'accampamento giungeva il suono attutito di molte voci, che si alzavano ed abbassavano, in una cantilena. Strisciando avanti sino all'estremità della radura, trovò Hans, riverso e coperto di frecce come un porcospino. Nello stesso istante, Buck volse lo sguardo verso il punto in cui sorgeva la capanna dei tronchi d'abete e vide qualcosa che gli rizzò il pelo sul collo e sulle spalle. Un impeto di rabbia lo travolse. Non sapeva che stava ringhiando, ma ringhiava con tremenda ferocia. Per l'ultima volta in vita sua, permise che la passione si imponesse sull'astuzia e sulla ragione. E fu motivo del grande amore per John Thornton che perse la testa. Hat stavano danzando attorno ai resti della capanna di abete quando udirono uno spaventoso ruggito e videro avventarsi su di loro un animale come mai ne avevano visti. Era Buck, un vivente uragano di furore che si scagliava su di loro in una frenesia distruttiva. Si lanciò in mezzo a quelli, dilaniando, squarciando, distruggendo con un'azione paurosa ed incessante che sfidava le frecce scagliate contro di lui. Fu una giornata nefasta per gli Yehat. Essi si dispersero nel territorio e ci volle una settimana prima che i sopravvissuti si raccogliessero in una valle più in basso per contare le perdite. Quanto a Buck, Stanco di inseguirli, tornò al desolato accampamento. Trovò Pete nel punto in cui era stato ucciso, sotto le coperte, colto di sorpresa. La lotta disperata di Thornton era scritta a caratteri ancor freschi sul terreno, e Buck ne fiutò ogni dettaglio, fino al limite d'un profondo stagno. Sul bordo, con la testa e i piedi nell'acqua, giaceva Skeet, fedele fino alla fine. Lo stagno stesso, melmoso e torbido, a motivo della chiusa, nascondeva perfettamente ciò che era nelle sue acque. E nelle sue acque era John Thornton. Buck infatti ne seguì le tracce fino all'acqua, e non v'erano tracce che uscissero dall'acqua. Per tutto il giorno Buck stette a rimuginare accanto allo stagno e vagò senza sosta per l'accampamento. Conosceva la morte come cessazione di movimento, come un passar via e scomparire dalle vite dei vivi, e sapeva che John Thornton era morto. Questo lasciò in lui un grande vuoto, qualcosa simile alla fame, ma un vuoto che non cessava di fargli male e che nessun cibo poteva riempire. Giunse la notte ed una luna piena sorse alta nel cielo sopra gli alberi, illuminando la terra sino ad invaderla con una luce spettrale. E col sopraggiungere della notte, rimuginando sul suo dolore presso lo stagno, Buck divenne sensibile al fremito di una nuova vita nella foresta, diversa da quella portata dagli Yeehat. Rimase in piedi, fiutando e ascoltando. Da molto lontano giungeva fievole ma acuto, un guaito, seguito da un coro di acuti guaiti simili a quello. Gli istanti passavano e quei guaiti divenivano più forti e più vicini. Anche questa volta Buck li riconobbe come qualcosa di udito nell'altro mondo, che perdurava nella sua memoria. Si mosse al centro dello spiazzo ed ascoltò. Era il richiamo, quel richiamo a molte note, che risuonava più allettante ed imperioso che mai. E come mai prima d'ora egli era pronto ad obbedire. John Thornton era morto, l'ultimo legame era spezzato. L'uomo e le pretese dell'uomo non lo trattenevano più. In caccia di cibo vivo, tallonando gli alci migranti come facevano anche gli Yeehat, il branco dei lupi aveva attraversato le terre dei boschi e dei torrenti e stava invadendo la valle di Buck. Si riversarono i lupi in un flusso argentato nella radura dove si spandeva il chiarore della luna, e al centro della radura era Buck, immobile come una statua, che attendeva il loro arrivo. Ne ebbero timore, tanto egli era grande e immobile, e vi fu un momento sospeso, fin quando il più coraggioso dei lupi non balzò dritto contro di lui. Buck colpì come un fulmine, spezzandogli il collo. Indi rimase immobile come prima, mentre il lupo colpito si dibatteva agonizzando alle sue spalle. In rapida successione, altri tre tentarono la sorte, e uno dopo l'altro si ritirarono versando sangue dalla gola e dalle spalle lacerate. Ciò fu sufficiente perché l'intero branco si lanciasse avanti alla rinfusa, affollandosi, intralciato e confuso dalla sua stessa ansia di abbattere la preda. E qui la meravigliosa rapidità di Buck, nonché la sua agilità, gli furono utili. Ruotando sulle gambe posteriori, azzannando e colpendo, egli era dovunque nello stesso tempo, presentando un fronte in apparenza continuo, tanto era rapido nel volteggiare e proteggersi su tutti i lati. Ma per impedire che lo cogliessero alle spalle, fu costretto a ritirarsi, indietro, oltre lo stagno e dentro un letto di un torrente, fin quando non si fermò contro un alto banco di ghiaia. Si aprì la strada verso un angolo retto, creato dagli uomini nei loro lavori di scavo, e in quell'angolo poté finalmente asserragliarsi, protetto su tre lati e con solo il fronte anteriore da difendere. E tanto bene si difese che dopo mezz'ora i lupi si ritirarono in rotta. Avevano tutti la lingua che pendeva e le bianche zanne che brillavano di ferocia nel chiarore lunare. Alcuni, accucciati a terra, avevano teste sollevate ed orecchie tese in avanti. Altri in piedi lo osservavano. Altri ancora bevevano allo stagno. Un lungo lupo, magro e grigio, avanzò a Guardingo, con modi amichevoli, e Buck riconobbe quel fratello selvaggio con cui aveva corso per un giorno e una notte. Mugolava sommessamente, e poiché anche Buck prese a mugolare, i due si toccarono il naso. Quindi un vecchio lupo, scarno e pieno di cicatrici, venne innanzi. Buck contrasse la bocca come per latrare, ma poi i due si toccarono il naso, al che il vecchio lupo s'accucciò, puntò il naso alla luna ed intonò il lungo ululato dei lupi. Anche gli altri si accucciarono ed ululularono, e ora il richiamo giunse a Buck con accenti inconfondibili. Anch'egli si accucciò ed ululò. Dopodiché egli uscì dal suo angolo ed il branco gli si affollò intorno, annusandolo in modo amichevole e selvaggio d'un tempo. I capi levarono il grido del branco e si lanciarono nei boschi. Gli altri lupi si lanciarono alle loro spalle, latrando in coro, e Buck corse via con gli altri, mugolando, al fianco di quel fratello selvaggio. E qui la storia di Buck può concludersi. Non erano trascorsi molti anni quando gli Yehat cominciarono a notare un mutamento nella razza dei lupi della foresta. Infatti, ne furono visti alcuni con chiazze marrone sul capo e sul muso ed una striscia bianca che correva sul loro petto. Ma fatto ancor più rilevante, gli Yehat raccontano la storia di un cane fantasma che corre alla testa del branco. Essi temono questo cane fantasma perché è più astuto di loro. Ruba nei loro accampamenti durante i rigidi inverni, svuota le loro trappole, uccide i loro cani e sfida i più valorosi cacciatori. Anzi, la storia diventa ancor più terribile. Vi sono cacciatori che non tornano all'accampamento ed altri cacciatori, trovati dai compagni della loro tribù, con le gole crudelmente dilaniate, mentre intorno sulla neve vi sono impronte di lupo, ma più grandi di quelle di un qualsiasi lupo. Ogni autunno, quando gli Yehat seguono le migrazioni degli alci, v'è una valle che essi evitano. E vi sono donne che si rattristano quando intorno al fuoco si racconta come lo spirito del male venne un dì a scegliersi quella valle come dimora. Nell'estate, tuttavia, in quella valle compare un visitatore, di cui gli Ehat non hanno notizia. È un grande lupo, dal manto meraviglioso, simile eppure non uguale agli altri lupi. Solitario, egli risale le ridenti terre dei boschi e discende fino ad una radura tra gli alberi. Qui un corso d'acqua gialla fluisce attraverso sacchi di pelle d'alce, imputriditi, e si disperde nel terreno, dove alte erbe crescono e detriti vegetali lo ricoprono, celando il suo giallo colore ai raggi del sole. E qui egli rimane in contemplazione per qualche momento, indi emettendo un solo lungo e triste ululato prima di andarsene. Non è sempre solo, tuttavia. Quando sopraggiungono le lunghe notti invernali ed i lupi inseguono la selvaggina fino nelle valli più basse, lo si può vedere correre alla testa del branco, nel pallido chiarore della luna o nella tremolante luce dell'aurora boreale, e balzare, stagliandosi gigantesco sopra i suoi compagni, con la grande gola che mugola, mentre egli intona il canto delle più giovani epoche del mondo, il canto del branco. Sono Roberto Galaverni, come avete sentito, il richiamo della foresta ha un modo di narrazione particolarmente intenso e condensato. Credo che la ragione del suo successo, della sua grandezza e diffusione si debba al fatto che, come in genere i grandi romanzi, può essere condensato in alcune, se non soltanto in una grande metafora principale. Che in questo romanzo poi la tensione tra il mondo della civiltà, che viene subito abbandonato, e il mondo selvaggio, la natura primordiale, quindi da un lato la civiltà costruita, la razionalità, e dall'altro il mondo degli istinti, che vive sia fuori, si è parlato appunto dei ghiacci e del limite estremo del territorio in cui è collocato il romanzo, ma anche dentro al protagonista, a Buck, quindi nel risveglio e nel richiamo di quello che appunto London, con la metafora poi fondamentale, chiama la foresta, quindi sia all'esterno che all'interno del personaggio. E il romanzo è costruito proprio così, una specie di formazione inversa e rovesciata, perché ciò che si acquista non è, come in genere accade nei romanzi, la civiltà, ma la civiltà è quello che si perde, e ciò che si riacquista e si ritrova è la profondità istintuale e liberatoria delle pulsioni. Il romanzo è costruito, dicono gli americani, per trials and errors, per prove ed errori, e appunto London parla spesso di lezioni. Book incontra la legge del bastone e delle zanne, scopre l'astuzia dell'uomo, scopre il pericolo, il rischio per la vita, la competizione, ma anche il lavoro quando tira la slitta e la passione del lavoro, le forze della natura e la propria forza corporea, la fame, il dolore, l'estasi dei sensi e della vita, ma anche il senso della morte. Book uccide anche un uomo durante il romanzo. Quindi Book perde la civiltà e ritrova la foresta. E questo in modo opposto, per esempio, a un altro grande romanzo di London, Zanna Bianca, celeberrimo anch'esso, in cui ciò che viene ritrovato alla fine è invece la casa, il senso della casa, che qui è invece quello che viene lasciato per sempre. E London parla della scoperta degli antenati, dei primordi. E poi c'è questa parola, la voce, con la V maiuscola, qualcosa che parla nelle lunghe sere passate davanti al fuoco, tra i ghiacci, stanco per il lavoro di tutto il giorno, qualcosa che parla dalle profondità. E quando alla fine del romanzo Book entra dentro la foresta, sentiamo che qualcosa di noi entra con lui per sempre in questo luogo. London è così. È uno scrittore, da un lato, di rude forza, uno scrittore molto diretto, ma capace anche di impennate quasi enfatiche, non ha paura di dichiararsi e di celebrare la passione per la propria materia. E questo è tipicamente americano, un misto di socialismo e di superomismo, di democraticità e di elitismo. E in questo senso London è per il primato della strada, per l'esperienza diretta più che per la letteratura, il racconto diretto dell'esperienza. E così può essere considerato anche un primogenitore di grandi scrittori come Hemingway, Steinbeck, anche Kerouac, la strada come primato di vita e di indicazioni sulla vita. Certo, London, uno scrittore per ragazzi, ma questo può essere anche visto come privilegio di grandezza, perché poi c'è la sicurezza che una volta letto questo scrittore si porterà sempre con noi e che le sue storie non verranno più dimenticate. Francesco Siciliano ha letto Il richiamo della foresta di Jack London, traduzione di Gianni Celati per Edizioni Einaudi, postfazione di Roberto Galaverni, regia di Anna Marzetti, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.